Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi tanto per cominciare festeggiamo insieme un compleanno, quello numero 67 di Ottavio Bianchi. Auguri Ottavio. Auguri, ma proprio una cattiveria la tua, un amico giornalista è meglio lasciarlo perdere. Quindi non è un pensiero gentile secondo te, ma è un'inutile crudeltà? No, scherzo, però io faccio di tutto, già lo vedo tutte le mattine quando mi specchio, però vabbè, è sempre ben accetto e ti ringrazio molto. Sì, quando ci siamo sentiti, stai a dire, mi hai teorizzato una cosa che sperimento a mia volta sulla mia pelle, perché sono pochi di meno, che è questa, cioè c'è un'età, fino ad un certo punto della vita, gli auguri vanno e vengono, cioè, poi c'è a un certo punto, quando i numeri sono grossi, scatta implacabile il fatto che tutti si ricordano dei tuoi compleanni. Vanno solo, non vengono. Sì. Vabbè, comunque è sempre una cosa, quando gli amici si ricordano è una cosa piacevole, al di là della battuta. Ti sei fatto un regalo di compleanno in questo periodo, in questi giorni? No, assolutamente. No. Lo rifiuto. Non esageriamo. No. Senti, però, mettiamola così allora, mi risulta che sei reduce dalla costiera amalfitana e questo magari non è un regalo, però è sempre un discreto ripasso secondo me dei fondamentali. Sì, perché io ogni tanto poi sono andato per un'occasione perché si è sposato il figlio di un mio carissimo amico e poi quando vado giù è un modo per divertirsi sotto il profilo dialettico, cioè sfrugugliare da una parte all'altra. Sfrugugliare, meraviglioso. Cosa che non questa in questa occasione erano i miei anni che hanno cominciato a dire tu immagina cose mi hanno detto dietro, che ognuno appena mi vedevano dicevano mamma mia come sei diventato vecchio, ma come hai fatto. E questa era la cosa più carina che ti diceva, tanto perché giù quando si arriva è proprio un teatro vivente, una certo. Battuta dietro l'altra di quelle che lasciano il segno. E quindi è un modo per ingiovanire, almeno per me, dal punto di vista dello spirito. Sono talmente affettuosi, simpatici, che quando sono giù di morale vado da loro. Senti, qual è il tuo gioiello preferito, visto che ci siamo, della costiera? Ma io vado a Vietri da qua da moltissimi anni. Sì. Perché ho gli amici e poi da lì cominciamo ad andare una volta. Andavamo a pescare con il gozzi, con il gozzo, così, ma c'è stato brutto tempo, poi avevo poco tempo. E poi Positano, Amalfi, Ravello, ma io ho frequentato molto anche Capri perché avevo un dirigente, un amico carissimo che è scomparso da poco, che era il dottor Verga, con il quale facevo dei lunghissimi weekend. I nostri weekend era lunedì. Certo, era il Can Way. A Capri faceva il farmacista, era una carissima persona. Il contrario del fine settimana delle persone normali, no? Per gli uomini del calcio, questo è evidente. Bene, se dovesse far giudizio il tuo ginocchio antico, ti suggerirei, allora, visto che siamo ancora sul turistico, ma adesso arriviamo sul calcistico, ti suggerirei Sentiero degli Dèi, quello che passa su Agerola e poi scende a Positano. Sì, me l'ho fatto quando il ginocchio reggeva. Ho fatto tutto. Ho fatto tutti quei posti, li ho fatti tutti. Una leggenda. Mare camminando, leggenda assoluta. Senti, nei dintorni mi pare che il Napoli non stia affatto andando male quest'anno. No, sta andando bene, adesso mi sembra che poi giocano un calcio congeniale, quello di sfruttare gli attacchi da dietro, l'inserimento da dietro di giocatori molto interessanti, però siamo conoscendo bene Napoli, purtroppo da molto tempo, l'entusiasmo certe volte è controproducente, certo. Perché hai appena cominciato e il dopo campionato del mondo solitamente è un grande vantaggio per le squadre non favorite, se vai a vedere la casistica, come chi no? Ha vinto le squadre piccole, che quando hanno vinto dopo i campionati del mondo, in questo periodo poi il campionato del mondo porta un logorio psicofisico tremendo, perché fasce dei rispettivi campionati, vedi Spagna, vedi Italia, vedi Inghilterra, sono già stati logorati per vincere o per lottare per vincere nelle tre competizioni. Sono arrivati ai campionati del mondo dove hanno uno stress psicofisico notevolissimo e sanno perfettamente che in poco tempo si possono giocare la carriera, non un anno. E quando arrivano, io ho avuto la possibilità molte volte di avere di ritorno dei giocatori, specialmente quelli che avevano perso, in condizioni veramente disastrate, ci voleva moltissimo per metterli in mezzo. E le squadre che hanno potuto effettuare un precampionato oculato, senza con i giocatori più importanti che hanno fatto una preparazione buona, senza fare grandi amichevoli subito per ottenere soldi o per ottenere, perché quando vai a giocare con una grande squadra il giocatore, le star le devi far giocare anche se hanno 3 giorni di allenamento, questo gioco non lungo ma all'inizio è devastante. Ecco perché le squadre piccole, le cosiddette piccole, vai a vedere anche nei campionati europei, volano, e le altre fanno fatica, perché il calcio, le tue qualità tecniche sono evidenziate se sotto il profilo fisico sei alla pari di un altro giocatore che ha un tasso tecnico inferiore. Ecco, tu ci puoi dire, ci stai dicendo quindi che potrebbe davvero essere l'anno di un outsider? Io insomma penso al 91, no? Al 91 della Sampdoria, per esempio, che era un anno post-mondiale. Il Napoli, la Lazio. Esatto. Tutte stagioni post-mondiali. Senti un po', quindi può essere così davvero secondo te anche a gioco lungo, oppure poi alla fine diventa più o meno un derby milanese? Se le squadre cosiddette non favorite cominciano a prendere il largo, prendono fiducia, le altre vanno sotto pressione e hai un organico di qualità, perché hai dentro dei giocatori di qualità che in alcuni momenti fanno la differenza, poi riprenderla non è facile. Senti, giocatori di qualità e giocatori di qualità, ma riprendo anche il tuo concetto di prima, cioè quello dell'eccesso di entusiasmo. Se torniamo a Napoli, a Napoli la famosa magica, cioè Maradona, Giordano, Careca, dalle tre iniziali, si sta riproducendo. Sì, senza dimenticare Carnevale, si sta riproducendo su Cavani, Hamsik, Lavezzi. Qui l'acronimo è più difficile perché l'H iniziale di Hamsik rovina un po' tutto, ma insomma è indubbio che per adesso è il miglior attacco quello del Napoli insieme alla Juventus, con una media di 2 gol a partita, che sono tanti. Passato il tuo messaggio che converrebbe stare calmi, e a Napoli è difficile se non impossibile, però risorse tecniche da metà campo in avanti ce n'è, poi è un bel vedere. Bisogna, il problema solo Napoli, e lo sanno benissimo chi conduce questa squadra, che una partita non fa primavera, due neanche, devi giocare una corsa a tappe molto ma molto lunga. E chi è abituato a vincere di solito ha chance in più, perché vincere con una squadra che non è abituata non è così difficile, mantenersi a certi livelli che è difficilissimo. Sì, ed è proprio un po' l'incostanza fino adesso il limite di questo Napoli. Primo intervallo di oggi, strade e autostrade. A parte il Napoli, caro Ottavio Bianchi, che cosa hai visto sino a qui di interessante in queste prime giornate di campionato? Di interessante ho visto, ripeto, come il Napoli c'è anche la Lazio che sta facendo bene. Vedo che le squadre che giocano un certo tipo di calcio senza grossi dispendi energetici, facendosi trovare con molto spazio in zona di attacco, sono quelle che ottengono migliori risultati, come sempre, come l'Inter l'anno scorso, come tutte queste squadre. E le difficoltà delle cosiddette grandi che stanno rallentando un campionato così a rallenti difficile, se non nei campionati, ripeto, che vengono dopo i campionati del mondo. Tra l'altro, visto che stiamo festeggiando un compleanno, il tuo, tra quattro giorni ne festeggeremo insieme, anzi con un giorno di ritardo, perché l'appuntamento con Eddie Rea è già preso per lunedì mattina, e cioè con l'allenatore attualmente in testa alla classifica, a sorpresa con la sua Lazio. Beh, Rea è della tua generazione, quindi credo che in fondo un po' di piacere te lo faccia. Oh, mi fa piacere per lui, perché è un allenatore che si merita, ha sempre lavorato con serietà in zone, anche in piazze difficili, con molto buon senso, come ci hanno sempre insegnato i non vecchi allenatori. Al di là dei grandi allenatori mediatici, ci sono anche gli allenatori alla Del Bosque che vincono comportandosi con grande rispetto degli avversari, con grande buon senso, non facendo il saltimbanco in panchina, e mi sembra che Di Rea sia uno di questi. Già, combinazione. Senti, giriamo sulla nazionale. Prandelli dice, e lo ha detto con chiarezza, non dico con durezza, ma con una chiarezza accentata, che c'è poco in giro. Allora la domanda che ti faccio è davvero così, oppure lui che non lo sa trovare? Ma non è una domanda polemica, è giusto per capire a parer tuo com'è. Allora, Prandelli ha il curriculum più importante per fare questo mestiere. Perché non gli hanno dato la Ferrari senza aver guidato la 500, ha fatto tutto il suo cammino dal settore giovanile alle squadre piccole ed è arrivato. È un ragazzo di grande buon senso, di grande equilibrio, sa farsi ben volere da tutti, e penso che quello che dice è sicuramente perché lo pensa e non ed è ponderato. E d'altronde non dice delle cose che nell'ambiente non si sa. Perché questo? Perché quando i nostri giocatori, faccio un esempio, Pirlo, che è il giocatore che negli ultimi anni è stato quello che tra il tasso tecnico più elevato, per imporsi ha dovuto aspettare 26-27 anni. È andato alla Regina, prima ha fatto un po' di alti e bassi. Lo stesso giocatore tipo Pirlo che troviamo nelle varie nazionali maggiori, quelli che esportano calciatori, queste esperienze lo fanno nel vario Boca Juniors, nel River o nel Santos o nel Palmeiras, adesso fai quello, tutte le squadre di prima fascia di questi paesi esportatori lo fanno quando appena hanno finito il settore giovanile, dai 18 ai 20 anni, e poi sono esportati. Noi, essendo un paese importatore, abbiamo queste difficoltà. Finché le nostre squadre non capiranno che il quindicesimo, il sedicesimo, dal quindicesimo al trentesimo giocatore della rosa non è un giocatore del vivaio, e i vivai devono essere valorizzati, gli istruttori devono essere degli istruttori veri, e il ciclo produttivo quando giocano e fanno tutta la gavetta nel vivaio della squadra, poi hanno la possibilità di giocare in prima squadra, tipo il Barcellona, vedi che saremo sempre in difficoltà. D'altronde io quando ero nella federazione tanti anni fa siamo stati a un congresso a San Pietroburgo e tutti i paesi occidentali che facevano parte di questo congresso, la risultanza finale di questo stage era che i giocatori giovani delle squadre occidentali avrebbero sempre trovato difficoltà se non facevano un'inversione di tendenza. Beh, questa più che una risposta è stata un trattato. Allora, per scendere un po' per usare di nuovo un po' di minuscole, la metto così. Mi pare di aver sentito anche una grande solidarietà territoriale, una battuta, nel senso che Prandelli è bresciano come te e Pirlo, il più grande talento degli ultimi anni, è a sua volta. Non ci ho fatto caso io. Sei malizioso, però oltre a dire l'età così, in una maniera così. Sì. E Pirlo pure, per cui 3 su 3. E allora no, non potevo perdermela. Senti, A proposito di bresciani, senti questo sfogo di Corioni, perché ieri quando io ho visto che, quando è arrivata l'agenzia, che Diamanti si era beccato 3 giornate per un insulto all'arbitro, e ho visto ira Corioni sull'agenzia, ho detto: Ale, Corioni riparte con gli arbitri piuttosto che con i giudici di linea, con chi ha sentito questo insulto e ha informato, eccetera. Senti invece cosa ha detto Corioni, perché da è il quarto bresciano, no, di questo momento, mi pare interessante. Diamanti è un giocatore di qualità incredibile, qualità non è inferiore a nessun fenomeno calcistico, lasciamo fuori Maradona, poi questo non è inferiore a nessuno, e io gli dico: ma tu hai 26 anni, 27 anni, dove sei stato fino adesso con queste qualità? Perché non sei in un grande club? Perché non sei, adesso comincio a capirla, perché se cominci, gli arbitri, già che sono giovani, sono tesi, sono attenti a non sbagliare, e uno comincia a discutere un quarto d'ora perché dà un fallo laterale da una parte o dall'altra, è chiaro che poi finisce col prendere 2 ammonizioni insignificanti. Io non credo che non abbia detto le parolacce, perché non penso che l'arbitro si diverta, che non abbia detto parole ingiuriose, credo all'arbitro, perché perché questo è un campione, ma se si comporta così non può giocare a calcio, questo è il problema. A me sembra una grande lezione etica, Ottavio, cosa dici? Scrivere, sottolineare, è perfetto. Se facessimo tutti così, ma già dal settore giovanile, quando i genitori o gli allenatori hanno a disposizione i ragazzi, la prima cosa da insegnare è il rispetto degli avversari e degli arbitri. Sai che io non vorrei ovviamente illudermi, ma nel giro di 2 giorni sono successe queste 2 cose. Ieri abbiamo molto raccontato, molto approfondito l'altra, e cioè di questo CT olandese Van Marwijk che ha escluso De Jong non solo per il fallaccio di domenica, che è costato una gamba a Ben Arfa, al suo avversario, ma perché era recidivo in nazionale ed era recidivo plurimo. Ha deciso di escluderlo perlomeno adesso da nazionale. Adesso Corioni, che una discreta fama da mangia arbitri l'ha sempre avuta, adesso invece se la prende con un suo giocatore. Non è che per caso il calcio sta provando a capire che bisogna ripassare, per l'appunto, i famosi fondamentali dell'educazione? Non solo dell'educazione, anche della tecnica e della tattica, secondo me. Ma quella dell'educazione, quando, caro Gigi, tu ed io eravamo giovani, e se venivi convocato in nazionale, mi ricordo allora, non dovevi essere squalificato, perché se venivi squalificato e poi c'era la convocazione in nazionale, non ti convocavano. Automaticamente saltava, automaticamente non eri convocato. Verissimo. Penso che siano delle norme giuste, certo. Anche perché gli arbitri hanno un mestiere difficile, poi ci sarà qualcuno che giudica per loro. No? Ma bisogna aiutarli. Vedo i campionati stranieri, specialmente in Inghilterra, non sono tutte mammolette, eppure ci sono delle regole, perché se un giocatore comincia a insultare l'allenatore perché viene fuori, oppure fa la cascata alla Di Biasi, oppure maltratta o fa un'entrata cattiva, gli stessi supporter, sì, i loro stessi tifosi cominciano a fischiare, certo. Tu vedi che comincia l'educazione, ma questo parte da molto, ma molto in profondità. Non puoi, finché uno fa un gol e comincia ad andare a fare 5 giri di campo per andare sotto e baciare le maglie, così sì, va bene, ma si può anche questo, l'eccesso di ostentazione, sì, di una cosa, secondo me bisogna darsi una regolata per ottenere quello che dice Corione. Tutto va un pochino diminuito, bisogna procedere per sottrazione, no? Come dicono quelli che parlano bene, evidentemente anche nel calcio. Ottavio, ancora tanti cari auguri. Grazie Gigi. A presto, alla prossima volta, tanto ormai gli anni ce li abbiamo e quindi ce li teniamo, e quando tu dici ai tempi in cui eravamo giovani, beh, insomma, lasciamo a chi ci sta ascoltando fare fare di conto. Sentiamo qualche altra voce che arriva, per esempio, dal Ritiro Azzurro. Poi nella seconda parte ci sarà spazio ovviamente per i vostri interventi. Beh, non è un uomo nuovo Mauri, che a sua volta è passato per il Brescia, oggi è una beneficiata bresciana. Non è un uomo nuovo per la nazionale, perché mi pare vanti già sei presenze in maglia azzurra, ma certamente mentre nelle altre occasioni c'era andato, come dire, da outsider, stavolta ci è andato da protagonista, perché è uno degli uomini chiave, se non l'uomo chiave, insieme ad Hernanes, di questa Lazio capolista. Sentiamo Mauri. Tanto merito della squadra, perché stiamo giocando bene, ci stiamo sacrificando l'uno per l'altro e questo è l'importante. Prima viene il bene della squadra e poi dopo, se la squadra fa bene, vengono risaltati le qualità dei singoli. Probabilmente adesso mi sento anche più responsabilizzato anche nella squadra di club, penso di poter dare tanto. Ho giocato tanti ruoli e mi trovo bene a giocare interno a centrocampo, ma posso fare anche l'esterno, il trequartista, è indifferente per me, l'ho girati un po' tutti, quindi mi sento pronto. Ovviamente devo dimostrare durante gli allenamenti di stare bene e poi sarà il mister a fare le sue scelte senza il suo problema. Le farà Prandelli, e tra poco magari cominceremo anche a provare a indovinare quali saranno queste scelte per il doppio impegno del fine settimana. Si gioca, vi ripeto, secondo la nuova formula internazionale, non più di sabato e mercoledì, ma di venerdì e di martedì. Torniamo tra poco anche con i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24, dopo l'aggiornamento delle borse. Beh, la chicca di giornata, che poi per la verità risale a ieri, ma rimane certamente una chicca, è il fatto che Christian Chivu, giocatore dell'Inter, sia stato deferito per aver rivolto platealmente, ripetutamente, gesti volgari offensivi all'indirizzo dei tifosi della squadra avversaria. E uno dice, beh, l'avrà fatto domenica, se è stato deferito ieri dal procuratore federale per, ripeto, gesti plateali e volgari offensivi all'indirizzo dei tifosi della squadra avversaria, sarà stato domenica per Inter-Juventus. No, sbagliato. È successo nella finale di Coppa Italia Roma-Inter dello scorso 5 maggio, cioè siamo esattamente a 5 mesi data. In soli 150 giorni il procuratore federale Palazzi ha esaminato gli atti di indagine, così leggo nel comunicato, e ha deciso di deferire Christian Chivu. Mi pare che se una volta la giustizia sportiva aveva di buono, certamente di buono, che i suoi tempi erano minimi rispetto a quella della elefantiaca giustizia ordinaria, beh, mi pare che anziché migliorare la giustizia ordinaria è quella sportiva che si è adeguata ai ritardi, perché 5 mesi per stabilire che un giocatore si è comportato scorrettamente nei confronti del pubblico di fede avversa è un discreto primato, mi pare. Fabio in linea da Verona, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, sono Granzini, sono da Verona e come tutti le ringrazio per l'oretta o 50 minuti di trasmissione che ci dà a noi sportivi. Sì. Volevo chiedere, fare una proposta per rendere il campionato più avvincente e non solito Inter, Milan, Juve e magari qualche outsider. Cosa facciamo? Li penalizziamo cioè mettiamo i no, pesi? No, io li penalizzerei, io farei, adesso io do la mia proposta, dopo lei mi dirà il suo, insomma. Dopo vediamo. Direi che i giocatori nati nella regione non si possono spostare. Quindi, okay. Quindi Cacà gioca nel cos'è, nel Rio Paranà, faccio per dire, piuttosto che nel San Paolo. Sì, cioè, come hai detto lei, i bresciani che ci sono, se sono così forti tutti questi bresciani, io non li farei spostare dalla zona della loro regione. Come ci può essere a Cassano, che nasce nel sud e rimane nella regione sua del sud. Ci facciamo un campionato. Ma io non sono un leghista, non è una questione di leghismo. Perché io sono del Verona e quindi... Non mi ero spinto sino a lì. Cioè, un campionato regionale, un campionato circoscrizionale. Le squadre che hanno soldi a palate, o sembrano che abbiano soldi a palate, perché dopo magari un Napoli, una Lazio, una Fiorentina fanno 4-5 campionati alla grande, dopo il presidente scompare come già è successo, insomma, e queste società vanno nell'oblio, insomma. Io farei così anche per rendere i bilanci, dato che siamo su Radio 24, rendere anche un attimo i bilanci un attimo giusti, o no? Per i bilanci poi ci vuole anche del pubblico, nel pubblico. Allora, io credo che se più le squadre, diciamo, minori si ancorano al territorio e attingono al territorio, più hanno certamente un effetto positivo sulla, come dire, tanto è sarebbe positivo sotto l'aspetto sociale, e lo è nelle zone dove si realizza. Quindi i vivai dell'Atalanta, faccio per dire, che è il vivaio del Bari, ci sono tradizionalmente queste cose, però poi insomma, un conto sono i campionati giovanili, un conto è attingere il più possibile al proprio vivaio, un conto insomma, sono le barriere, insomma, no? Io credo che sarebbe a maggior ragione antistorico in un paese, in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui l'unità di misura non è nemmeno più, perlomeno per le persone civili acculturate, non è nemmeno più l'Italia, ma è l'Europa. E quindi mi sembra davvero antistorica. Drago, leggo bene, da Brescia, buongiorno. Sì, pronto, signor Garanzini? Dica. Buongiorno, sono Drago da Brescia, sono un tifoso, sono un serbo. Aha. Devo fare una domanda, se è possibile, o due. Due. Una sulla Serbia per mercoledì. Per così penso, no? Martedì, sì. Martedì, uh-huh. E cosa ne pensa Krasic? Può far paura questa Italia calcisticamente parlando? È una sulla pallavolo, se possibile. Dica. Sulla pallavolo la Serbia sempre, se può far paura, sempre l'Italia, perché la vedo in finale con l'Italia. Grazie a lei, Drago. Lì me ne intendo un po' meno, sinceramente. Però io credo che... tradizionalmente negli sport di squadra tutto quello che è slavo ha buonissime tradizioni, e quindi può, cioè, paura magari no, ma insomma rispetto tanto, ecco, e quindi sono squadre sempre molto ma molto competitive. Anche la Serbia calcistica può creare problemi all'Italia. Lei ha citato Krasic, però io ci metterei anche Stankovic, se parliamo di grandi giocatori che si esibiscono da noi e che conosciamo, uno benissimo, Stankovic, che c'era un sacco di anni, e un altro cominciamo a conoscerlo e apprezzarlo come Krasic. Non sono gli unici, ci sono altri talenti, e quindi credo che l'Italia debba stare molto, ma molto attenta con giocatori di quel genere. Tornerei a Coverciano perché insomma un po' di rumore il ritorno in nazionale di Zambrotta oggettivamente lo ha fatto e ha destato qualche robusta perplessità anche personale, per esempio, e allora sentiamo come spiega, cosa ci racconta di questo suo rientro in azzurro. Dopo il Mondiale, insomma, l'ho detto, mi sarebbe comunque piaciuto continuare l'esperienza nazionale, insomma, per me questa è una grande famiglia, io dal 99 che sono qui, e quindi poi chiaramente con la speranza poi un domani magari di continuare, però questo non... Chiaramente magari dipendeva da me, però più dipendeva dal mister, da Prandelli, dal progetto suo. È sicuramente una nazionale più nuova, ci sono tanti giocatori che magari per la prima volta fanno parte di una qualificazione di un europeo, quindi ci vuole solo un po' di tempo. Ho visto comunque un bellissimo clima, insomma, anche durante gli allenamenti, un ritmo elevato, quindi sinonimo comunque che tutti vogliono far bene, che vogliono correre, che vogliono aiutarsi. Beh, e questi sono dei bei presupposti oggettivamente, e non si può dire che Zambrotta non abbia il termometro di queste atmosfere, visto che insomma di partite ne ha giocate davvero tante, e non è lontano dai 100 gettoni di presenza in maglia azzurra, che visto questo ripescaggio è diventato il suo non ci pensava sicuro fino a pochi giorni fa, ma a questo punto è diventato il suo nuovo obiettivo. Maurizio, provincia di Bari, buongiorno. Garanzini, chiedo scusa, io ho già chiamato quest'estate alla vigilia di un match importante, ora non ricordo quale, presumo del Brasile, che purtroppo sarebbe stato trasmesso su Sky e non sul nostro servizio pubblico. Sì. E ho amareggiato dal fatto che lei, insomma, giustamente tesseva le lodi del buon Fabio Taverri, ma insomma a noi poveri abbonati al servizio pubblico non restavano credibili. Cioè, ora sinceramente, dopo aver sentito ieri rispondere a un radioascoltatore che si lamentava della qualità dell'approccio sulle emittenti pubbliche, quando lei gli ha risposto dicendo: io il approccio lo seguo su Sky. E purtroppo mi ha un po' investito questa sua risposta, perché non tutti possiamo permettercelo, non tutti dobbiamo necessariamente pagare quei 42 euro mensili per poterci vedere uno spettacolo che in realtà dovrebbe essere garantito già dal servizio pubblico. Quindi sinceramente mi aspettavo che almeno il suo spazio radiofonico fosse più democratico e meno di nicchia. Comunque, Maurizio, però vede, qui è una questione di realismo. Io mi guardo bene a fare pubblicità all'uno o all'altro emittente, all'uno o all'altro canale, non è quello il problema, e non mi pare sia quello che lei mi sta imputando. Lei si dice un po' amareggiato perché io do per scontato che quello sia la fonte di informazione, però quella è, nel senso che le partite sono Sky e Mediaset Premium a trasmetterle, no? Mi pare, non è la Rai. I diritti del campionato li hanno comprati queste due televisioni a pagamento, come d'altra parte accade praticamente in tutta Europa. Quindi non sinceramente faccio un po' fatica a capire. Quella è la fonte di documentazione. Se uno il calcio lo vuol vedere, lo vede lì, se no non lo vede. Diverso è, uno dice: mi accontento dei filmati, delle sintesi, per ragioni economiche o di bandiera o qualsiasi ragione sia, e allora è diverso. Però a me personalmente, per ragioni di documentazione, non bastano le sintesi. Oltretutto, e fin qui siamo sull'oggettivo, no? Poi se passiamo al soggettivo, c'è un discorso di qualità, e a parità di offerta, anche quando le partite sono trasmesse in contemporanea da servizio pubblico e da, chiamiamolo, servizio privato, o quando le rubriche sono curate da servizio pubblico e servizio privato, io credo che il servizio pubblico perda o straperda da un punto di vista qualitativo. Ma qui siamo arrivati al campo delle opinioni, prima era il campo dei fatti. Flavio, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io forse mi sono perso qualcosa del gioco del calcio. Tempo fa si disse che i giocatori che agitavano la mano come tarantolati per segnalare su un fallo il cartellino giallo all'avversario dovevano essere sanzionati loro stessi. È cambiato qualcosa nel frattempo? Grazie. Non è mai entrato nel regolamento, non è mai diventata una norma. Questa è stata una minaccia che per un po' di tempo è stata agitata. Altrove, in altri paesi, è bastato per l'appunto minacciare il fatto che tu chiedi la munizione di quell'avversario, bene, allora io arbitro comincio a ammonire te, poi quell'altro decido con calma se ammonirlo o meno. Altrove basta la minaccia, da noi no, perché questo vizio è più radicato, però non è mai diventata norma, e quindi lei non si è perso niente, per tornare alla sua domanda, perché niente c'era mai stato di concreto da questo punto di vista. Credo sia tempo di un altro intervallo per vedere come va sulle strade. Penserei di risparmiare all'ascoltatore di Verona che ha proposto il campionato regionale le reazioni dei suoi colleghi ascoltatori, perché non sarebbero particolarmente lusinghiere, ecco, mettiamola così. Il ripasso di storia, il 6 ottobre, raccontato da Nicola Filippone. Sembra ieri. 6 ottobre 1929, scatta il primo campionato di Serie A a girone unico, il 30° in assoluto. L'Italia si uniforma così alla formula in vigore nei principali paesi europei. L'unica squadra meridionale che prende parte al torneo è il Napoli, mentre la regione più rappresentata è la Lombardia, con 5 squadre: Cremonese, Brescia, Propatria, Milan e Ambrosiana Inter. Sarà proprio quest'ultima a conquistare lo scudetto, trascinata dai 31 gol del capocannoniere Meazza. Primo campionato della storia a girone unico. Andrea, provincia di Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno. E a proposito dell'Inter, io volevo parlare del calciomercato dei nerazzurri. Io sono interista e, come tutti, chiaramente non sono rimasto soddisfatto. Forse perché abituato gli anni precedenti a campagne acquisti faraoniche. Quest'anno, a mio avviso, ma penso all'avviso di chiunque si intende di calcio, ci siamo indeboliti. rispetto alle altre squadre, Milan e Juventus, che non dico che l'Inter sia più debole della Juventus, però comunque sia, io non penso che partita dopo partita, non credo sempre meno che Coutinho e Biabiani valgano Balotelli, ad esempio. Potenzialmente no. Poi insomma, qualche occasione in più credo che la meritino da questo punto di vista, però credo anche che ma indubbiamente non c'è stato rafforzamento, c'è stato semmai un leggero indebolimento avendo appunto rinunciato a Balotelli, e mi pare che al momento tutto sia ancora, non tutto ma molto, sia ancora abbastanza riconducibile agli infortuni, perché non sono stati pochi, ma gli infortuni a loro volta non sono un buon segno, indubbiamente, e quindi e da qui questo maggiore equilibrio che per il momento ha durato 6 giornate, ma che potrebbe essere destinato a protrarsi. D'altra parte, se viene fuori la squadra più forte, più collaudata, ok, il campionato lo rivince l'Inter. Se non dopo una serie di anni non dovesse andare così, beh, insomma, credo che tra tutti, magari gli interisti no, ma se no tra tutti ce ne faremmo una ragione, no? Se non altro per il principio dell'alternanza. Giovanni Milano, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Io vorrei dissentire dal fatto della, diciamo, del nostro CT Prandelli aver chiamato di nuovo Zambrotta, in quanto giovani non ce ne stanno in questo momento che promettono bene. Io sinceramente avrei arretrato un po' Maggio, che forse è il sostituto naturale di Zambrotta. Ecco, avrei fatto, diciamo, partire titolare Maggio e non avrei chiamato per niente Zambrotta. Magari avrei fatto, avrei portato in panchina magari un altro giovane che promette nel suo ruolo e basta. Avrei lasciato a casa Zambrotta. Sì, anch'io. No, ma non per disistima nei confronti di Zambrotta, che oltre a essere stato un gran giocatore è anche un giocatore signore, tra l'altro. Quindi e quindi credo che anche queste valutazioni ambientali abbiano avuto il loro peso. Io penso che quando si volta pagina, e si volta pagina traumaticamente, perché è obbligatorio voltare pagina, non perché è una scelta, ma perché non c'è alternativa, tanto vale quella pagina girarla del tutto e non avere poi tentazioni di tornare sui propri passi, ecco, sia pure saltuariamente o sia pure per un episodio come può essere ancora questo. Io credo che psicologicamente non sia stata una grande mossa, ma non tanto per Zambrotta, quanto per tutti quei ragazzi che giocano sull'una o sull'altra fascia nel nostro campionato o in altri campionati, ma convocabili ovviamente per l'Italia, tipo Molinaro, che poi invece è stato ripescato per un infortunio. Credo che questa sia una piccola demotivazione per loro, e da questo punto di vista mi sembra una mossa non felicissima. Sentirei a questo punto il CT dell'Under 21, perché insomma, la nazionale maggiore si gioca contro Irlanda e poi Serbia una buona parte di qualificazione ai prossimi europei, ma per Casiraghi quello con la Bielorussia è uno spareggio, andata e ritorno. Allora sentiamo la sua vigilia. È una squadra che ha dimostrato carattere, personalità, perché siamo arrivati a un certo punto, insomma, che avevamo veramente l'acqua alla gola, invece sono dimostrati veramente un'ottima squadra. Abbiamo raggiunto una qualificazione insperata da parte di tutti, quindi questo per noi deve essere un punto di riferimento. Non dobbiamo sprecare tutto quanto abbiamo fatto di bello finora, perciò vogliamo andare a fare questo europeo perché è un'occasione per tutti. È un'occasione per tutti, sì. Insomma, dopo aver visto la morte in faccia, perché insomma l'Italia poi è riuscita a superare quel girone veramente in maniera abbastanza miracolosa alla fine, adesso farsi buttare fuori in un confronto diretto alla Bielorussia sarebbe davvero un peccato. Giancarlo ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, Galanzini. Dica. Innanzitutto devo fare i complimenti per la sua capatezza, la sua pacatezza, sì, e la sua serietà di esposizione, per cui quello che andrò a dire vedrà che non è una critica nei suoi confronti. E il mio pensiero è questo: purtroppo Di calcio nel nostro servizio pubblico se ne parla fin troppo, mi rifaccio al discorso del signore di prima. Sì. Molto spesso le partite interrompono qualunque altro tipo di programmazione e onestamente devo dire a chi non ama il calcio, chi lo considera uno sport troppo evadente, è eccessivo. Che il weekend, lunedì compreso e ormai purtroppo anche fino al giovedì, visto il protrarsi delle partite di Coppa, ci sia un continuo parlare e non sempre con la pacatezza che usa lei, per intenderci, molto spesso da Basport con toni violenti, con toni, come dire, abbastanza dal petulante all'aggressivo, mi sembra seriamente diseducativo. Noi siamo pieni di tantissimi sport interessanti, dove si può partecipare con estremo, diciamo, maggior coinvolgimento rispetto al calcio. Io pratico anche altri sport, ormai il calcio l'ho praticamente abbandonato, sono un interista pentito, visto che pensavo di tornare morattiano, ma di Moratti seri all'orizzonte non se ne vedono in una squadra tutta straniera. Ci sono tanti sport molto più affascinanti, c'è il rugby, ci sono gli sport cosiddetti minori che hanno necessità di visibilità che non gli viene data. Ma insomma, che non gli viene data o comunque che gli viene data solo parzialmente, però gli sport sono tanti e non è facile garantire una copertura su tutto. Il problema del servizio pubblico è anche quello di, appunto, diversificare e quindi in questo senso va capito. Questo è un discorso, ripeto, di quantità. Poi c'è uno di qualità che invece secondo me è molto diverso. Antonio, chiudiamo con lei da Chieti, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo fare soltanto una riflessione in merito agli atteggiamenti, magari riprendendo anche il colloquio che faceva con Oliviero Bianchi sì. All'inizio della puntata. Io tra l'altro le dico che sono juventino, quindi insomma magari il fatto che io faccia una critica verso qualche giocatore dell'Inter possa essere un po' di parte, certo. Ma mi sembra una forma nuova di maleducazione quella che abbiamo visto da parte di, se non sbaglio, Chivu e il terzino Oliviero? Maicon. No. No, Maicon, quando Maicon volevano la sostituzione, hanno avuto quella reazione veramente, direi, fuori da... Sì, fuori dagli stracci. Una delle turbolenze ambientali dell'Inter di questo momento, però in quel caso non nei confronti del pubblico, in quel caso nei confronti dell'allenatore o comunque della panchina. Il dirigente accompagnatore evidentemente, o comunque c'è qualcosa in società in questo momento che sta funzionando solo fino a un certo punto. La saluta non Oliviero ma Ottavio Bianchi, io saluto e ringrazio Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida in redazione e vi do appuntamento a domani. A tempo di sport.